giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Rissa con almeno 15 giovani stranieri coinvolti ieri poco prima delle 19 a Trieste tra via della Geppa e via Trento. Sono volate sedie, apparsa una lama e un 17enne pakistano è finito all'ospedale per le ferite da arma da taglio. Sono 1.194.248 i residenti in regione, stando ai dati Istat del censimento del 2022. 400 persone in meno all'anno precedente, la sostanziale stabilità dei numeri deriva dal saldo migratorio di più 8.600 individui. Inaugurato il nuovo centro polifunzionale della zona industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento, una struttura che offre spazi di co-working, uffici, un auditorium e anche ambulatori per la medicina del lavoro. Il gruppo Cimolai ha un portafoglio ordini di 810 milioni di euro, tra questi le lavorazioni per il più grande telescopio al mondo nel deserto di Atacama. Il progetto di bilancio approvato dal CDA registra 8 milioni di utili e assieme ad altri indicatori positivi segna la ripartenza del gruppo dopo il concordato. I dipendenti di Recycla di Magnago del gruppo Hera in sciopero per la mancata erogazione del premio di produzione e le disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti della multiutility. Dopo 20 anni di patente si ha più esperienza al volante, ma certe regole introdotte nel codice della strada successivamente e anche il significato di alcuna segnaletica meno frequente può sfuggire all'automobilista. Ecco che la polizia locale di alcuni comuni propone un ripasso delle regole. Buongiorno da Daniele Letti, Gennada Cioc, la cronaca in primo piano con la rissa avvenuta alla luce del giorno poco prima delle 19 di ieri sera a Trieste tra via Trento e via della Geppa, non lontano dalla stazione ferroviaria. 15 giovani coinvolti, di cui uno ferito con un'arma da taglio, che è stato trasportato all'ospedale di Cattinara. Il giovane pakistano è stato dimesso poco fa. Sulla dinamica e i motivi della rissa sta indagando la questura, ma pare che tra i gruppi coinvolti ci fosse anche un gruppo di stranieri residenti a Monfalcone. La rissa scoppia intorno alle 6 del pomeriggio, in mezzo all'incrocio tra via Trento e via della Geppa, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Le macchie di sangue oggi sono ancora presenti sull'asfalto. In un video girato da un passante si vedono una quindicina di ragazzi, due gruppi di pakistani, tra loro qualche minorenne, fronteggiarsi a calci, pugni e spintoni. Alcuni di loro hanno in mano la sedia di un locale in cui avevano appena mangiato. Spuntano due coltelli. Un 17enne, ospite di una comunità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati dell'Isontino, viene raggiunto da un colpo d'arma da taglio sotto l'ascella. La lama ha solo sfiorato organi vitali. Il ragazzo, trasportato in codice giallo a Cattinara, è già stato dimesso. Nella zona in passato qualche episodio analogo, ma mai nulla di eccessivamente grave, ci dice un commerciante. Alcuni dei partecipanti alla rissa erano ubriachi, mai visti da queste parti, indicano testimoni. E si raccolgono qua, per cui è come un centro di raccolta. E arrivano da tutte le parti del mondo e pian piano, con sto telefonino, si concentrano. E poi succede perché si odiano tra di loro. Danno noia fino a un certo punto, perché si arrangiano molto tra di loro. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Mentre le indagini e l'azione penale per essa aggravata faranno il loro corso, dalla questura assicurano che controlli, anche interforze, nel quartiere sono stati rafforzati. Ma in assenza di misure cautelari, i ragazzi coinvolti fanno ritorno in comunità. Molti minori stranieri non accompagnati vanno a scuola o al lavoro nei grossi centri, a Trieste o Udine. Fuori microfono, forze dell'ordine, magistratura e operatori del settore, tutti concordano sull'urgenza di ridurre il numero dei cosiddetti casermoni e aumentare il numero di educatori. Trieste, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ammontavano a 1.194.000 i residenti in Friuli Venezia Giulia al 31 dicembre 2022, un numero sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente con un calo di solo 399 unità. A dirlo è l'Istat che oggi ha diffuso i dati del censimento permanente della popolazione relativo appunto al 2022. Secondo l'Istituto di Statistica la sostanziale stabilità della popolazione deriva da un saldo migratorio positivo più 8.600 individui che ha compensato la perdita dovuta ai decessi. Inoltre, a differenza del resto del paese, dove si è raggiunto un nuovo record di denatalità, in Friuli Venezia Giulia nel 2022 si sono registrate 7.277 nascite, 8 in più rispetto all'anno precedente. In regione, continua il report dell'Istat, a fine 2022 le donne erano il 51,2% della popolazione, superando gli uomini di oltre 28.000 unità, mentre l'età media si attestava a 48,3 anni. Gli stranieri censiti infine erano 116.000, 3.000 in più del 2021, il 9,7% della popolazione regionale, e provengono da 153 paesi. Rendere il pubblico impiego più attrattivo significa anche rendere la professione più stimolante, e in Friuli Venezia Giulia l'autonomia regionale offre margini di manovra per migliorare la qualità e l'efficienza del lavoro. A sostenerlo è la CISL, che ha presentato i dati di uno studio a una tavola rotonda alla quale partecipa anche l'ANCI e l'assessore alle autonomie locali. Sentiamo l'intervista alla segretaria della CISL, Renata Della Ricca. Ci sono spazi nell'autonomia regionale per valorizzare il lavoro pubblico che in questo momento attraversa una fase di scarsa attrattività? Sì, il lavoro pubblico è un lavoro importante, ci sono gli spazi per migliorarlo, in modo particolare facendo entrare più giovani nella pubblica amministrazione, e più giovani con delle formazioni dove portino innovazione nella pubblica amministrazione, in modo particolare nei comuni. C'è la necessità di un nuovo ente intermedio al posto della ex provincia, dell'UTI, dell'EDR, e con quali funzioni? Per noi come CISL pensiamo che un ente intermedio che svolga delle funzioni delle ex province può servire, perché pensiamo ai permessi di pesca. Può farlo un ente intermedio, non la regione. Con un ente intermedio si riesce a sgravare di certe funzioni l'ente regione, ma possiamo dare anche una mano ai comuni, e in modo particolare i comuni piccoli che hanno pochi dipendenti. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato inaugurato il nuovo centro polifunzionale della zona industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento. Sentiamo quali servizi offre la struttura da circa 3 milioni di euro. Un nuovo centro servizi polifunzionale in zona industriale Ponte Rosso a San Vito al Tagliamento, opera da 3 milioni di euro, inaugurata oggi ad alta tecnologia. L'edificio ospita spazi di coworking, uffici, auditorium e anche ambulatori per la medicina del lavoro a disposizione delle imprese insediate e non solo. Sergio Barelle, presidente del consorzio Ponte Rosso Tagliamento. Oggi i consorzi industriali sono ormai servizi per le imprese, stanno una grandissima evoluzione da gestore di terreni a gestore di servizi per le imprese, per gli insediati e soprattutto per le persone. Questo centro servirà per ampliare i servizi che noi facciamo alle imprese, ci saranno i medici del lavoro, ci sarà possibilità di co-working, possibilità di incontro e di meeting per le imprese per scambiare esperienze e crescere culturalmente, che è quello che serve oggi affinché i consorzi possano diventare quelle che noi chiamiamo delle comunità economico-sociali e ambientali. Il consorzio conta 270 aziende insediate e 6.500 tra lavoratrici e lavoratori. Daniele Gerolin è direttore. È l'opera più importante che il consorzio ha realizzato. È un'opera che comunque si articola su circa 600 metri quadrati, costato circa 3 milioni di euro, ma è un edificio che comunque darà risposta alle servizi alle imprese. Quindi col co-working, la medicina del lavoro, nel senso che ci sarà un medico del lavoro praticamente che tutte le imprese potranno utilizzare, c'è un auditorium dal punto di vista tecnologico molto avanzato e poi c'è una serie di uffici che sarà la sede anche staccata di Confindustria. È in cantiere anche l'ampliamento del nido aziendale da 50 a 70 posti, un progetto di welfare abitativo per i dipendenti. Tra gli altri progetti in discussione con la regione, l'allacciamento all'acquedotto e la viabilità in zona industriale a Spilimbergo. San Vito al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il CDA della Cimolai ha approvato il progetto di bilancio 2023 che porta a 290 milioni di ricavi l'azienda, dopo l'omologa del piano concordatario, e quindi ripartita attraverso una strategia di crescita focalizzata su Italia, Europa e Stati Uniti. I dati finanziari registrano, accanto ai 290 milioni di euro di ricavi, 8 milioni di euro di utile netto della gestione caratteristica, più 105% sul 2022, e 324 milioni milioni di euro di risultato netto complessivo, che include il risultato positivo straordinario conseguente all'omologa del piano concordatario che ha permesso la ridefinizione delle posizioni debitorie della società e 120 milioni di euro di posizione finanziaria netta. La performance dell'intero gruppo Cimolai a livello aggregato attestano i ricavi a 390 milioni di euro e il portafoglio ordini dell'intero gruppo a marzo 2024 ha raggiunto 810 milioni di euro. Tra i principali progetti attualmente in corso vi sono il telescopio più grande del pianeta nel deserto cileno di Atacama, il lotto 2 della linea 17 della metropolitana di Parigi, i ponti JFK in New York e i moduli per la liquefazione del gas per la Baker & Hughes e in ambito metropolitano della città di Milano, l'Arena Santa Giulia e la nuova stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni. Due nuovi bandi del valore di quasi 3 milioni di euro dedicati alla transizione green digitale per la manifattura avanzata sono stati presentati questa mattina nella sede di Confindustria Udine. Si tratta di bandi promossi e gestiti dall'Ateneo Friulano in quanto capofila del nodo INEST dedicato alla transizione verde e digitale. Sono aperti fino all'8 luglio e sono destinati a imprese e organismi di ricerca e riguardano le aree tematiche di energia, manifattura intelligente, robotica e meccatronica, materiali, intelligenza artificiale e scienza dei dati. Due nuovi bandi dell'ecosistema dell'innovazione INEST promossi e gestiti dall'Università di Udine sono stati presentati nella sede di Confindustria, dedicati alla transizione verde e digitale per la manifattura avanzata. L'importo è di oltre 2.953.000 euro, sono destinati a imprese e organismi di ricerca e riguardano le aree tematiche energia, manifattura intelligente, robotica e meccatronica, materiali intelligenti, artificiale e scienza dei dati. Angelo Montanaro, Università di Udine, coordinatore del consiglio scientifico del consorzio INEST. 43 milioni sono dedicati a bandi per le aziende finché lavorino insieme, diciamo, universitari, ricerca universitaria e ricerca e sviluppo aziendale. Abbiamo già fatto un bando da 20 milioni. E questo è un secondo, anzi da 30 quasi milioni, questo è un secondo bando che va a coprire più di 20 milioni. Per il nostro territorio il tema è la manifattura avanzata, la transizione digitale ecologica. Per la manifattura avanzata abbiamo quasi 2 milioni, più un milione per aziende del sud. Quindi circa 3 milioni complessivamente per questo tema che è in qualche modo gestito dall'Università di Udine. Il vicepresidente di Confindustria Udine con delega all'innovazione, Dino Ferragotto. È uno dei temi che in questo momento coinvolge moltissimo le aziende perché sono temi che richiedono un grande impegno di ricerca e di innovazione e da qui la collaborazione con l'università è molto importante. Il programma di ricerca INES, sostenuto dal PNRR, ha l'obiettivo generale di incentivare l'applicazione delle più avanzate tecnologie digitali nelle principali aree di specializzazione del Triveneto, i settori industriale, manifatturiero, agricolo, marino, montano, edile, turistico, culturale, della salute e dell'innovazione. I bandi saranno aperti sino all'8 luglio. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Università di Trieste si trova al 20° posto sui 67 atenei valutati in Italia dalla classifica CVR sulle migliori università del mondo e l'Ateneo Friulano al 34° posto. Sentiamo. Per stilare l'edizione 2024 della prestigiosa graduatoria del Center for World University Rankings sono stati presi in considerazione 20.966 atenei sparsi in ogni angolo del pianeta, valutati in base alla qualità della formazione, all'occupabilità dei laureati, alla qualità dei docenti e della ricerca. A livello nazionale i due atenei della regione mantengono le posizioni del 2023. Trieste è 20° su 67 atenei valutati in Italia, terza nel Triveneto quasi a pari punti con Trento, mentre Udine si conferma al 34° posto. Prendendo ancora in considerazione gli atenei d'Italia, dietro a Trieste troviamo tra gli altri la Bocconi e la Normale di Pisa, dietro a Udine l'Università Roma III e la Ca' Foscari di Venezia. Guardando agli indicatori che hanno inciso nella valutazione, sia Trieste che Udine guadagnano posizioni sul fronte dell'occupabilità dei laureati, mentre ne perdono in quello della ricerca. Arretrano anche a livello globale. Nella graduatoria finale delle 2000 eccellenze universitarie mondiali, Trieste da 469° diventa 492°. 192esima, mentre Udine da 640esima passa a 676esima, pur restando rispettivamente al 2,4 e al 3,3% del top della classifica. L'Università di Trieste conferma l'ottima posizione degli scorsi anni, dimostrando stabilità dei risultati, molto significativa in un mondo fortemente concorrenziale. È il commento del rettore dell'Ateneo Giuliano Di Lenarda, secondo cui non esiste il ranking perfetto, le politiche accademiche non devono essere orientate al suo miglioramento. Tuttavia, aggiunge, i risultati raggiunti nei molteplici rankings attestano quanto sia riconosciuta e apprezzata l'efficacia e l'efficienza dell'istituzione. Sulla stessa linea il rettore dell'Università di Udine, Pinton, che rimarca inoltre come il confronto si giochi tra atenei di dimensione, storia, tipologia di finanziamento e stati molto diversi tra loro, e quindi più che la posizione assoluta, importante per Pinton esserci e apprezzabile comunque occupare le posizioni di testa a livello mondiale. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora dello sciopero allo stabilimento Recicla di Maniago, di proprietà della multiutility ERA. Si è svolto questa mattina davanti all'impianto un presidio dei lavoratori che protestano per la mancata erogazione del premio di produzione e le disparità di trattamento con gli altri dipendenti del gruppo in Italia. Abbiamo intervistato Laura Perin, delegata RSU dello stabilimento. Abbiamo indetto lo sciopero in quanto siamo da 4 anni che siamo nel gruppo ERA e ancora non abbiamo visto niente premio produzione. Ormai sono 4 anni e siamo ancora all'oscuro da questo punto di vista. Ci sono già state delle interlocuzioni con l'azienda prima di arrivare allo sciopero? Che cosa vi è stato risposto? Le richieste le abbiamo portate al tavolo con l'azienda e dopo comunque c'è l'avvertenza nazionale col gruppo ERA, quindi abbiamo partecipato anche noi all'avvertenza nazionale. E quali sono state le risposte arrivate appunto al tavolo nazionale? Non ci sono state risposte, hanno rinviato, abbiamo fatto un incontro, poi abbiamo fissato un altro incontro, sono stati rinviati due incontri, quindi non siamo mai arrivati a una situazione, a un punto di incontro, abbiamo neanche iniziato. E voi quindi denunciate anche disparità rispetto agli altri dipendenti del gruppo a livello nazionale? Assolutamente sì, c'è molta disparità, abbiamo avuto solo il welfare e premio produzione e anche la questione che quanto riguarda il contratto, che noi siamo gomma plastica e l'azienda fa un'attività diversa. Qual è l'attività dello stabilimento e come si è svolto il passaggio a ERA 4 anni fa? L'attività principale è combustibile, sia liquido che solido. L'ingresso è stato graduale, sono partiti con una parte di percentuale del 70%, dopo dal 70% sono arrivati al 100%. Qual è l'adesione allo sciopero di oggi e come sta andando? Sta andando molto bene lo sciopero, hanno partecipato parecchi. In occasione della giornata internazionale dell'infermiere, l'ordine professionale apre al pubblico la propria nuova sede di Trieste in via Carducci 22 alle 16:30 e nel pomeriggio si dedica anche alla formazione con un seminario sul testamento biologico. Ma sentiamo quali sono i temi attuali con i quali gli infermieri si devono confrontare quotidianamente. La professione di infermiere è probabilmente dequalificata, non ben pagata e quindi scarsamente appetibile. Marzo 2005, aziende sanitarie costrette ad importare infermieri dalla Polonia perché qui i lavoratori anche allora non si trovavano. E a quanto pare in 20 anni nulla è cambiato, a partire dalla questione stipendi, che restano troppo bassi a fronte di professionisti oggi laureati e che spesso hanno anche master e dottorati. Cristina Brandolin, presidente Ordine Infermieri Trieste. La professione infermieristica è una professione che impegna molto sul piano psicofisico, quindi possiamo immaginare che il professionista, una volta a casa, ha bisogno, come dire, di un recupero psicofisico, anche di godersi un po' il tempo che gli rimane insieme ai suoi cari e alla famiglia, ecco. Il reddito degli infermieri, che è circa di 29.000 euro annui, e basato appunto a livello nazionale, diciamo che di questi tempi non consente tutti questi conforti. Il 62% degli infermieri, secondo una recente indagine del sindacato NURSID, è infelice della propria situazione lavorativa e sempre più spesso, specie dopo la pandemia, i professionisti lasciano il pubblico per lavorare in privato. Ma se gli stipendi sono regolati dal contratto collettivo, cosa offre in più il privato? Il servizio privato accreditato in genere è quello in cui meno si ha, non c'è praticamente l'urgenza, l'emergenza, quindi c'è un'attività programmata che consente insomma ai professionisti di gestirsi meglio sia l'attività interna che poi anche diciamo tutto quello che è proprio la propria vita esterna. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 12.49 e 30 secondi siamo al tempo, cielo da nuvoloso a coperto su tutta la regione. Queste le temperature delle 11, a Trieste 19 gradi e mezzo, a Gorizia e Udine 20, a Pordenone 19 gradi. A Tolmezzo 14, a Forni di sopra 11 gradi, a Tarvisio 12, a Sappada e Piancavallo 9. Sul Monte Zoncolan 6 gradi, sul Monte Lussari 5, sulla costa a Lignano e Grado 20 gradi. Le previsioni sulla zona montana, cielo coperto con piogge da deboli a moderate, la possibilità anche di rovesci, su pianura e costa cielo nuvoloso coperto con piogge a carattere sparso, intermittenti o deboli, più probabili nelle ore centrali. Domani cielo da nuvoloso a coperto sulla zona montana e nuvoloso in pianura e variabile sulla costa durante il corso della giornata, sulla zona montana piogge sparse, intermittenti, con la possibilità di qualche rovescio sulla fascia occidentale della regione. In apertura della settimana della bonifica organizzata quest'anno dal Consorzio Bonifica Pianura Friulana saranno presentati gli interventi a tutela della fauna selvatica realizzati dai consorzi e finanziati dall'amministrazione regionale. Le relazioni saranno curate dai docenti dell'Università di Udine Stefano Filacorda e Stefano Pesaro, dall'avvocato Lara Melchior del Comitato di Difesa della Fauna Selvatica e dall'assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier. Inizio alle 14.30 nella sede del Consorzio in Viale Europa a Udine. Sabato sera a Udine, in via Volpe, una pattuglia della polizia locale aveva notato un'auto che alla vista degli agenti ha cambiato repentinamente direzione di marcia con l'intento di arrestarsi sulla parte sinistra della carreggiata. Ha spento le luci e il motore. Gli agenti, insospettitisi dal comportamento, hanno raggiunto la vettura dalla quale stavano scendendo cinque giovani. Sono stati fermati ed identificati. Il giovane che era alla guida ha da poco compiuto 18 anni ma era senza patente. È stato sanzionato e il veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo. Nella stessa serata una donna è stata deferita all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, facendo registrare un tasso alcolemico superiore di 2 volte oltre al limite previsto dalla legge. Ai patentati da oltre 20 anni, la polizia locale di 8 comuni del Friuli Occidentale offre un ripasso della segnaletica del codice della strada per una guida più sicura. Continui i cambi delle norme del codice della strada, dubbi sui nuovi cartelli, popolazione anziana di patentati. Questa alla base dei corsi di aggiornamento che la polizia locale del Friuli Orientale, che racchiude 8 comuni, tiene agli automobilisti che hanno la patente da oltre 20 anni. Dalle 18.30 alle 20 gli ufficiali della polizia locale della comunità incontrano la popolazione per aiutarli ad una guida più consapevole. Il corso è tenuto da agenti della polizia locale e da un medico dell'azienda Servizi Sanitari. Il comandante della polizia locale della comunità Friuli Orientale, Fabiano Gallizia. Abbiamo pensato di mutuare questa attività didattica nelle scuole anche per coloro che hanno la patente da un po' più di tempo, quindi come cosiddette patenti datate. In altri paesi europei questo ripasso è previsto normativamente e noi l'abbiamo fatto per cercare di dare un aiuto alle persone che si trovano magari in difficoltà nell'apprendere le nuove norme. Un successo dell'iniziativa inaspettata che ha visto più di un centinaio di partecipanti agli incontri, tanto che l'iniziativa verrà ripetuta dopo l'estate, facendo un passo in più. Ancora il comandante Gallizia. Sicuramente la ripeteremo dopo l'estate, prima della fine dell'anno, anche perché queste iniziative sono state possibili grazie al contributo della Regione, che elargisce dei fondi per interventi in materia di sicurezza urbana ogni anno, tra i quali anche questi interventi che noi abbiamo proposto agli utenti come comunità del Friuli Orientale. C'è da dire che vogliamo fare un passo in più, nel senso che oltre alla teoria vorremmo anche mettere gli utenti, come dicevo, questi patentati da tanti anni, anche a delle prove pratiche che vorremmo attuare con dei simulatori di guida. Cividale del Friuli, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Proseguiamo con il giornale radio. Calcio, inizia questa sera per l'Udinese il trittico di partite decisive per la salvezza. Nel posticipo della 36esima giornata i bianconeri saranno impegnati alle 18.30 sul campo del Lecce contro una squadra già sicura di rimanere in Serie A dopo i risultati del fine settimana, risultati che con le sconfitte di tutte le concorrenti dirette. Frosinone, Cagliari, Empoli, Sassuolo e Verona offrono ai bianconeri un'occasione imperdibile. In caso di vittoria, infatti, l'Udinese tornerebbe padrino del suo destino e sorpasserebbe in classifica Empoli e Frosinone, le avversarie delle ultime due giornate. Mister Cannavaro dovrebbe riproporre Paiero a centrocampo, mentre in difesa torna dal primo minuto Perez. Il giornale radio sarà anticipato alle 18:05 per poter trasmettere su questa rete, su queste frequenze, la radiocronaca diretta della partita. Il basket in Serie A2, con la sconfitta in casa per 74-72 contro Cantù, la Gesteco Cividale ha terminato ieri sera la sua stagione, con il tecnico Pillastrini e il presidente Mikalic che guardano già alla prossima. Ci fermeremo solo quando arriveremo in A1, ha detto Mikalic, e ho visto che non manca molto. Quanto alle altre due regionali impegnate nella corsa per salire di categoria, sia la Udine, che sfiderà proprio Cantù, che la Pallacanestro Trieste, accoppiata a Forlì, torneranno sul parquet domenica 19 per le semifinali. E con questo chiudiamo questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Daniele Lettige e Nada Cioc, con la collaborazione in regia di Paolo Cassano e Tommaso Vinoni. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.